giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Quella sera del 27 luglio del 93 Milano si sta spopolando. Di macchine ne passano poche e chi resta in città si gode un poco di fresco nei luoghi di cinema, nei luoghi di musica. Alle 23:15 tutti i milanesi si fermano. Si sente un rumore lontano, sordo. Un'autobomba esplode in via Palestro a Milano, davanti alla Villa Reale. Il padiglione di arte contemporanea viene distrutto. Moriranno 5 persone, 3 pompieri, un vigile urbano, un immigrato marocchino che dormiva su una panchina del parco. Alessandro Ferrari, 30 anni, Carlo Locatena, 26 anni, Sergio Pasatto, 34 anni, Stefano Picerno, 37 anni, Driss Musafir, 44 anni. Altre 7 persone, in maggioranza vigili del fuoco e urbani, rimasti feriti. Pochi minuti dopo la stessa scena si sposta a Roma. 2 ordigni esplodono, uno sul retro della Basilica di San Giovanni Laterano, dove ha sede la Curia, l'altro davanti alla chiesa di San Giorgio al Velabro. Nelle stesse ore viene registrato un blackout telefonico a Palazzo Chigi, la sede del governo. Rimarrà isolata per alcune ore. Gli episodi vengono subito messi in relazione agli attentati di Via Paolo a Roma, 14 maggio. Via dei Giordoppi di Firenze, 27 maggio. La macchina utilizzata dagli attentatori è una Fiat 1 imbottita di esplosivo. Come a Firenze, con la Galleria degli Uffizi, anche a Milano si sceglie un luogo d'arte per il nuovo attentato. Pochi minuti prima dello scoppio quella Fiat 1 viene segnalata da una coppia di giovani ad una pattuglia di vigili urbani. E dalla vettura esce infatti del fumo nero. I vigili pensano subito ad un principio di incendio, chiamano così, con l'autoradio, i pompieri e inviano in via Palestro un'autopompa. 3 vigili del fuoco si avvicinano all'auto, tentano di aprire il cofano, si rendono subito conto della trappola. È un'autobomba, non un incendio. Intravedono la miccia a lenta combustione già accesa e uno di loro grida: «C'è una bomba!» Ma non fa in tempo a salvarsi. Lo scoppio è devastante. L'esplosione crea in via Palestro una fossa profonda e ampia, 2 metri per 3. Il padiglione d'arte contemporanea si sbriciola. Ci vorranno anni per ricostruirlo. Quella di via Palestro a Milano chiude la stagione delle stragi del 93, 10 morti, 95 feriti. Roma, via Fauro, 14 maggio del 93, 21:45, 24 feriti. Probabile obiettivo Maurizio Costanzo. Firenze, via dei Giordofili, 27 maggio 93, ore 1:04, 5 morti, 37 feriti. Agli Uffizi 3 dipinti sono perduti per sempre, 173 restano danneggiati, insieme a 42 busti, 16 statue. Milano, via Palestro, 27 luglio 1993, 23:15, 5 morti, 12 feriti. Roma, chiese di San Giovanni di Laterano, San Giorgio al Velabro, 28 luglio 93, ore 003:008, 22 feriti, danni gravissimi alle due chiese. La stagione delle stragi comprende anche un fallito attentato allo Stadio Olimpico nell'autunno del 93. Nel mirino erano un centinaio di carabinieri. Il fallito attentato al pentito Totuccio Contorno a Formello, 14 aprile del 94. Ma per comprendere cosa stava dietro alle stragi del 93 bisogna fare un passo indietro. La cupola di Cosa Nostra aveva progettato quegli attentati per dare un messaggio alla politica, alle leggi come il 41 bis, il carcere duro ai mafiosi. Un messaggio che doveva contenere il terribile T4 contro persone, vittime innocenti, contro il patrimonio artistico del paese. Per questo alla fine i processi per quelle bombe sono stati unificati e per comprendere bisogna affidarci alla voce dei collaboratori di giustizia, i boss mafiosi che hanno parlato di fatti, di nomi, di circostanze, tutti poi verificati nelle aule dei processi. Firenze, Corte d'Assise, udienza del 30 giugno del 99, Giuseppe Pulvirenti indica in Totò Riina il mandante dell'attentato a Costanzo. Che se doveva fare Costanzo fu dopo Totò Riina. Ho avuto contatto io con Nino Civieri, che l'ha mandato Totò Riina dove diceva se ci deve fare questo favore, ci dovevamo fare questo regalo, mozzo Totò. Perché da una trasmissione Costanzo e Michele Santoro aveva sbagliato dicendo i boom perché non inventano noi altri ci mettiamo più colletto, diceva tutte queste parole. E allora su queste parole è uscito un discorso che Nino Cie disse, dice, ci dobbiamo fare questo regalo a coso, a Totò Regina, ci ho Totò. Il botto di Via Fauro provoca 24 feriti, l'obiettivo Maurizio Costanzo si salva di un soffio. Passano pochi giorni, la strategia della mafia si sposta a Firenze, in via dei Georgofili. Questo è ciò che ha riferito a caldo il ministro dell'interno di allora Nicola Mancino, alla Camera dei Deputati. Verso l'una della notte tra il 26 e il 27 maggio si è verificata a Firenze, nella centralissima via dei Georgofili, adiacente alla Galleria degli Uffizi, una fortissima esplosione che ha distrutto l'Accademia Settecentesca dei Georgofili e danneggiato seriamente sia gli stabili vicini, sia la prospiciente ala ovest degli stessi uffici. L'evento terroristico ha purtroppo comportato il decesso di 5 persone ed il ferimento di 24. I 5 decessi riguardano un intero nucleo familiare, 4, ed un inquilino dello stabile vicino. Ma cosa è stato accertato dai magistrati, dai giudici, sulle stragi di quel 1993? Luca Tescaroli, pubblico ministero, esperto di inchieste su una mafia stragista. Dopo le stragi del 1993 iniziò nel paese una reazione rabbiosa, vi fu grande coesione da parte di magistratura, investigatori, da parte delle istituzioni che nel loro complesso riuscirono a individuare i responsabili, molti dei responsabili dello stragismo che nel 92 e nel 93 ha afflitto il nostro paese, riuscendo a piegare la democrazia. Sono state ottenute, con riferimento alle stragi del 93, 15 condanne divenute oramai definitive, passate in giudicato. Si è accertata una porzione significativa della verità, ma non tutta la verità. Ecco, se si riuscisse a capire le ragioni per le quali l'ondata stragista si è fermata, probabilmente si riuscirebbe a compiere ulteriori passi in avanti per dare un volto agli oscuri committenti che contribuirono all'ideazione e alla deliberazione dello stragismo dei primi anni 90. Anni dopo. La mafia tace, non più bombe contro cose e contro persone, non più sangue, solo una vecchia strategia, quella di sempre. Calati Junco, che la piena da passare, calati Albero, che la piena deve ancora passare, la strategia del silenzio. La mafia per il momento sta a guardare, ancora per il momento.